Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Indagato il capo della mobile di Napoli, Vittorio Pisani, avrebbe rivelato notizie riservate su indagini relative ad un clan camorristico. E ancora una giornata di sciopero in Grecia contro i tagli, fermo anche a Londra il pubblico impiego contro la riforma delle pensioni. In Gran Bretagna, condannato all'ergastolo Danilo Restivo, secondo il giudice inglese avrebbe ucciso anche Elisa Claps. Licenziare solo le donne perché tanto possono stare a casa con i figli, polemiche sulla decisione di un'azienda nel milanese. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano le accuse pesanti nei confronti del capo della squadra mobile Vittorio Pisani. In questi minuti a Napoli la conferenza stampa che chiarirà quali sono dunque le accuse. In diretta con noi da Napoli Paolo Picone. Sì, buongiorno. Il capo della squadra mobile di Napoli, Pisani, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti dei titolari di un ristorante nell'ambito di un'inchiesta della DIA nei confronti di affiliati al clan camorristico Lorusso per riciclaggio e usura, che ha portato ad arresti e sequestri di aziende di 17 esercizi pubblici per un valore di 100 milioni di euro. Paolo Picone, lo abbiamo perso, cercheremo di ripristinare la linea. Nel frattempo sentiamo un ritratto della figura di Vittorio Pisani in questa scheda. Vittorio Pisani è l'uomo che lo scorso novembre ha arrestato Antonio Iovine, superlatitante di Camorra ricercato da 14 anni. Noto per questo, ma anche per avere dato parere negativo all'attribuzione della scorta a Roberto Saviano quando è scoppiato il caso Gomorra. È stato un poliziotto di strada Vittorio Pisani, nato a Catanzaro, laureato in giurisprudenza, arriva a Napoli e lavora alla sezione omicidi, le volanti e poi la Catturandi. Nel 97, a 30 anni, diventa capo della omicidi, una promozione ottenuta per meriti sul campo dopo aver arrestato numerosi latitanti e avere ricostruito la cosiddetta alleanza di Secondigliano. Subito dopo viene indagato per omissione d'atti d'ufficio e la contestazione contro di lui di aver avuto rapporti con l'allora latitante Guglielmo Giuliano. Pisani anche quella volta venne trasferito a Roma, ne uscì pulito, fece un concorso interno per diventare primo dirigente, arrivò primo. Da allora è capo della mobile di Napoli. Fino ad oggi Pisani, per il quale è stato deciso il divieto di dimora a Napoli, sarà trasferito ad altro incarico, ancora non si sa quale, in della conclusione delle indagini. Monica Ceravolo, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ma torniamo alla conferenza stampa in corso a Napoli, torniamo in diretta con Paolo Picone. Allora, ci dicevi delle accuse? Sì, dicevo dell'inchiesta contro il clan Lorusso per riciclaggio e usura che ha portato ad arresti e sequestri di aziende di 17 esercizi pubblici per un valore di 100 milioni di euro. L'ha spiegato il procuratore di Napoli Gian Domenico Lepore nel corso della conferenza stampa che si è tenuta poco fa. La responsabilità della squadra mobile del capo della squadra mobile di Napoli è stata affidata temporaneamente al vice capo Pietro Morelli. Pisani verrà trasferito a Roma, come ha anticipato il questore di Napoli Merolla. Secondo quanto emerso dalle indagini, il capo della squadra mobile avrebbe rivelato all'imprenditore Marco Iorio notizie riservate sull'inchiesta in corso, consentendogli così di sottrarre beni al sequestro e di depistare le indagini. Alle indagini hanno dato un contributo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Lorusso, ex capo clan dell'omonima organizzazione criminale attiva nel quartiere di Miano, e che ha riferito tra l'altro degli stretti legami di amicizia tra lui e il capo nella squadra mobile. Tra le società di ristorazione sequestrate nell'ambito dell'operazione c'è anche la Regina Margherita, che ha tra i propri soci il calciatore Fabio Cannavaro con una quota del 10% e che gestisce anche altri ristoranti, uno dei sempre in via Partenope. Il calciatore, che non è indagato, avrebbe fatto da prestanome all'imprenditore Marco Iorio, legato al gruppo di Mario Potenza, dedito all'usura e legato ai clan camorristici napoletani. E da Napoli grazie. Per il momento è tutto. Grazie a Paolo Picone. Ed oggi, come sapete, è il giorno della manovra. Sono ore di intenso lavoro queste per la messa a punto del testo che approderà alle 15 in Consiglio dei Ministri. Si lima, si ritocca, anche per mediare fra le molte anime della maggioranza. Quali sono dunque le questioni aperte? In diretta con noi da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Rassicurano dal PDL sulla tenuta del governo, ma anche dai responsabili in vista del varo della manovra da parte del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Il ministro dell'Agricoltura Saverio Romano è fiducioso, la maggioranza sta bene. Sulla comunitaria è stato un incidente di percorso, Bossi fa il duro ma è costretto a far vedere i suoi che è la Lega a dettare l'agenda. E oggi interviene anche il presidente della Consob Giuseppe Vegas. La situazione delle finanze pubbliche e le basse prospettive di crescita ci rendono vulnerabili al rischio di contagio della crisi greca. La manovra evita questo rischio, ma è anche importante, dice Vegas, dare impulso alla crescita, altrimenti si rischia di deprimere ulteriormente l'economia. Intanto l'opposizione si prepara alla battaglia parlamentari. I capigruppo PD alla Camera e al Senato, Franceschini e Finocchiaro, si dicono disponibili al confronto, ma niente trucchi. Il Partito Democratico ostacolare ha con ogni mezzo un decreto onnicomprensivo di tutte le norme che la maggioranza non è più in grado di approvare con leggi ordinarie. E per il momento è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ma veniamo invece ai contenuti della manovra che appunto nel pomeriggio approderà in Consiglio dei Ministri. Bisognerà aspettare il testo nel pomeriggio, ma intervistato dal Financial Times, il ministro dell'Economia Tremonti smentisce che la versione che sarà approvata oggi sia stata annacquata rispetto a quella originaria. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Ore di intenso lavoro per i tecnici del Tesoro, ma anche per molti deputati impegnati nelle modifiche che fino all'ultimo saranno proposte al ministro dell'Economia Tremonti. Il testo garantisce lo stesso Tremonti non sarà annacquato, ma certo i compromessi raggiunti rispetto alla versione originaria non sono pochi, a partire dal capitolo previdenza, niente rincaro dei contributi per i collaboratori e per le donne l'età della pensione dovrebbe salire dal 2020. Tra le novità, della sera notte vi è la tassa sulle auto di media alta cilindrata, si definiscono nuove imposte anche per le operazioni finanziarie. Entra nel provvedimento una mini sanatoria per le liti fiscali di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre per l'aumento dell'IVA il governo prenderebbe tempo, verrebbe confermata invece la rimodulazione delle aliquote IRPEF. Gli altri contenuti della manovra, quindi, i tagli alle regioni valgono 9 miliardi di euro, rientrano i ticket sanitari, 10 euro dal prossimo anno per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, 25 per i codici bianchi del pronto soccorso, stop alla riscossione coattiva delle multe sulle quote latte, alla rivalutazione delle pensioni d'oro, ministri senza stipendio e tagli alle auto blu rientrerebbero tra i tagli ai costi della politica per la pubblica amministrazione, infine blocco del turnover per un anno e stipendi fermi fino al 2014, patto di stabilità più leggero per i comuni virtuosi. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta, restiamo dunque sui contenuti al momento ipotizzati della manovra, ci colleghiamo con il collega del Sole 24 Ore Marco Mobili, buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, quali sono le ultime, se hai notizie di variazioni rispetto a quanto abbiamo detto fino adesso, a quanto avete anche scritto stamattina sul giornale? Diciamo, i tecnici sono ancora al lavoro, tant'è che il preconsiglio, cioè la riunione tecnica che precede i lavori del Consiglio dei Ministri che si terrà oggi alle 15 è ancora in corso, quindi le eliminature proseguono. Novità dell'ultima ora possono essere, sembra, arrivare una riduzione del 3% sulle bollette per imprese e cittadini, dal 1 gennaio le bollette dell'energia elettrica. Altra novità, sembrerebbe confermato quanto anticipato dal Sole 24 Ore oggi, la liberalizzazione delle professioni sarà trasformato in un disegno di legge delega e quindi viaggerà in Parlamento come collegato alla manovra, così come sarà per la riforma fiscale. Ecco, per venire invece al condono per le liti fino a 20.000 euro di cui parlava poco fa anche Vincenzo Miglietta, questo resta confermato al momento? Al momento è confermato, confermo tutto. Praticamente per chiudere e ridurre il contenzioso il governo avrebbe scelto una doppia via per il passato, ovvero per le liti pendenti fino al primo maggio 2011 e di importo fino a 20.000 euro, i contribuenti potranno versare una somma, un forfè, per quelle fino a 2.000 euro pari a 150 euro, per quelle fino a 20.000 euro pagando una percentuale in relazione allo stato del contenzioso, certo. Quindi 10, 30 o 50%. E poi c'è la vicenda delle quote latte, no? Che stava molto a cuore, sta molto a cuore alla Lega, pare che ci sia lo stop dunque alla riscossione. È la vittoria della Lega in effetti, perché anziché passare per l'ennesimo rinvio a tempo di 6 mesi in 6 mesi come abbiamo visto negli ultimi 2 anni, passando per tutti i 1000 proroghe, negli ultimi 2 anni praticamente la Lega ha ottenuto una sospensione e non solo, ha così crea l'agente della riscossione Equitalia sarà chiamato, non se ne occuperà più, per cui per gli agricoltori non ci sarà più l'incubo delle ganasce piuttosto che delle espropriazioni, si tornerà al vecchio decreto ingiuntivo che ha tutti i tempi ben più lunghi delle misure coattive utilizzate da Equitalia. Grazie a Marco Mobili, collega del Sole 24 Ore. Dunque nel pomeriggio scopriremo davvero qual è il testo definitivo della manovra, ma i problemi di finanza pubblica non riguardano solo l'Italia. Oggi sciopero in Gran Bretagna e non va molto meglio anche in Grecia, dove il Parlamento è chiamato a votare la legge d'attuazione del piano di austerità approvato ieri. Intanto il governo greco ha ordinato l'avvio di un'inchiesta sulle violenze scoppiate ieri nel centro di Atene durante le manifestazioni. Restiamo in tema economico, sale l'inflazione al top da novembre 2008, il tasso dell'aumento dei prezzi si è attestato al 2,7% nel mese di giugno, lo 0,1% in più rispetto a maggio. Sull'accelerazione pesano soprattutto i rialzi dei prezzi dei trasporti, più 6,9% il trasporto aereo sul mese precedente, più 52,8% il trasporto marittimo, più 2% il trasporto ferroviario. Dicevamo poco fa del Consiglio dei Ministri delle 15, in primo piano la manovra, ma anche la vicenda rifiuti di Napoli. Ufficialmente la questione non è all'ordine del giorno, l'emergenza rifiuti a Napoli però potrebbe trovare comunque spazio oggi nel Consiglio dei Ministri. Nella maggioranza si sta infatti lavorando ad un provvedimento che permetta di superare i paletti posti dalla Lega, contrari al trasferimento dei rifiuti napoletani al nord. La via suggerita dal Carroccio è quella di portarli nelle regioni che confinano con la Campania. Se ne parlerà in un incontro con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, che sono stati convocati a Palazzo Chigi fra meno di mezz'ora per parlare soprattutto della manovra. In base alla disponibilità dei governatori potrebbe essere messo a punto un provvedimento, forse un decreto, con il quale mettere mano all'emergenza rifiuti. Il testo potrebbe poi passare subito al vaglio del Consiglio dei Ministri, la sua approvazione però potrebbe arrivare in una successiva riunione del governo che il premier Berlusconi vorrebbe organizzare proprio a Napoli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tiriamo un po' il fiato, parliamo di sport, in particolare di tennis, con Wimbledon. Oggi è la volta delle semifinali femminili. Wimbledon the day after, il giorno dopo l'eliminazione di Roger Federer, Wimbledon è ancora sotto shock. Si sente un po' orfana di quello che è stato il dominatore sui campi in erba londinesi dal 2003 al 2007, poi ancora nel 2009, che quest'anno si era presentato tirato a lucido, pronto a raggiungere il record delle 7 vittorie. Dopo aver vinto i primi 2 set però, Federer ha ceduto di schianto al francese Joe Wilfried Tsonga, che con percentuali di servizio stratosferiche gli ha lasciato pochissime chance. Gli altri 3 semifinalisti in campo domani sono gli attesi Rafa Nadal e Andy Murray e Novak Djokovic, che se la vedrà appunto con Tsonga. Si parla di uomini anche se oggi la giornata è dedicata alle semifinali delle donne, perché finora il livello del torneo femminile è stato veramente scadente. Sugli incontri del pomeriggio soffia il vento dell'est Europa, come da un po' di tempo avviene fra le ragazze: la bielorussa Azarenka contro la ceca Kvitova e la pin-up russa Maria Sharapova contro la Lisicki, tedesca ma di origine polacca. Se il gioco sarà quello dei giorni scorsi, per i palati fini del pubblico di Wimbledon ci sarà poco da divertirsi. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Wimbledon. Indagato il capo della mobile di Napoli, Vittorio Pisani, avrebbe rivelato notizie riservate su indagini relative ad un clan camorristico. Guai anche per il calciatore Fabio Cannavaro. Si lima e si ritocca il testo della manovra economica che approderà alle 15 in Consiglio dei Ministri. Ancora una giornata di sciopero in Grecia contro i tagli. Fermo anche a Londra il pubblico impiego contro la riforma delle pensioni. E ripartiamo dalla cronaca, l'avete sentito nella nostra breaking news. Danilo Restivo è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Heather Barnett, avvenuto il 12 novembre 2002 in Gran Bretagna. Lo ha deciso un giudice inglese dopo che ieri l'uomo era stato riconosciuto colpevole di omicidio. Durante il processo l'accusa ha evidenziato i punti in comune fra il delitto della Barnett e quello di Elisa Claps, uccisa il 12 settembre 93 a Potenza. Per l'omicidio Claps, Restivo sarà processato l'8 novembre con rito abbreviato. Ed ora la storia del bimbo di 9 anni morto all'ospedale Regina Margherita di Torino per un guasto nell'erogazione dell'ossigeno nel corso di alcuni lavori di manutenzione, almeno questo è quanto si sa. Siamo in diretta con Ignazio Marino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Buongiorno Marino. Buongiorno a tutti. Ho detto bene che sarebbe morto per questo guasto nell'erogazione dell'ossigeno? Effettivamente dal dai primi documenti che abbiamo ottenuto grazie all'intervento dei NAS della nostra commissione, sembrerebbe che esserci stato un gravissimo incidente nella distribuzione dell'ossigeno. L'ossigeno in ogni ospedale viene distribuito da una centrale che poi attraverso dei tubi lo fa arrivare a tutti i reparti, evidentemente è molto importante nei reparti ad alta intensità come la rianimazione e come le sale operatorie. I medici si sono accorti che i pazienti sia in sala operatoria che in rianimazione desaturavano. Cosa significa? Ci sono degli allarmi che indicano se l'ossigenazione del nostro sangue sta diminuendo e questo evidentemente è legato al fatto se noi riusciamo a portare sufficiente ossigeno nel nostro sangue attraverso la respirazione. E purtroppo a un certo punto ieri pomeriggio i tubi dell'ossigeno non distribuivano più ossigeno. Ecco, ma com'è possibile questo in un ospedale? Insomma, è fondamentale che arrivi anche in caso di guasti, in caso di blackout naturalmente. È un fatto gravissimo su cui si sta indagando, anche perché dalle carte che in questo momento ho in mano sembra che un gas effettivamente venisse distribuito, ma era a contenuto pressoché zero di ossigeno, era una miscela di gas senza ossigeno e con un odore, così lo definiscono i medici presenti, pungente. Quindi in questo momento stiamo cercando di capire che cosa è accaduto. Immagino che negli ospedali ci siano dei sistemi di emergenza, evidentemente. Ci sono e c'erano e hanno funzionato anche a Torino. I medici hanno subito sostituito la distribuzione dell'ossigeno con delle bombole che erano presenti e hanno permesso di ossigenare i pazienti. Purtroppo il paziente più grave, un paziente che aveva una gravissima patologia respiratoria e che dipendeva al 100% dall'ossigeno, cioè respirava attraverso un tubo inserito nella trachea e che gli forniva il 100% di ossigeno, quel bambino purtroppo soccorso anche immediatamente non ce l'ha fatta. Ma è chiaro che bisogna capire che cosa è accaduto, perché certo, effettivamente non è accettabile che si interrompa la distribuzione di un gas così importante per la vita come l'ossigeno in un ospedale e per di più nelle aree ad alta intensità di cura come la rianimazione e la sala operatoria. Grazie ad Ignazio Marino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Restiamo invece nel torinese, dove per ore un anziano si è barricato in casa, poi nella notte il brutto epilogo. Omicidio-suicidio, si è conclusa così la vicenda dell'ottantenne di Collegno in provincia di Torino barricatosi in casa con la convivente. Poco dopo la mezzanotte si sono sentiti diversi colpi di arma da fuoco e nella casa c'è stato un principio di incendio. L'anziano ha sparato prima alla convivente e poi si è tolto la vita. Inutili le ore di lavoro dei mediatori delle forze dell'ordine che hanno cercato per tutta la giornata di far desistere l'uomo dalle sue intenzioni. Una storia di disperazione e ristrettezze economiche questa. La coppia era seguita dai servizi sociali. La convivente dell'uomo, anche lei ottantenne, viveva in carrozzina ed era affetta da demenza senile. A far scattare la rabbia dell'anziano sarebbe stato un blackout elettrico che l'uomo aveva erroneamente additato a un ritardo nel pagamento della bolletta. Inoltre, gli era stato aumentato l'affitto da 84 a 400 euro perché non aveva risposto a un censimento dell'agenzia che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico. L'aumento era poi rientrato grazie all'intervento dell'assessorato ai servizi sociali, ma l'episodio aveva turbato ulteriormente l'anziano. Romolo Napolitano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nessun commento da fare. Giancarlo Massei, presidente della Corte d'Assise, che ha condannato in primo grado Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, ha risposto così questa mattina a chi gli chiedeva un commento ai risultati della perizia genetica depositata ieri, secondo la quale non è certo che sia di Meredith il DNA trovato sul coltello ritenuto l'arma del delitto. Un processo dunque tutto da rifare, l'omicidio di Meredith è ancora tutto da scrivere, dice al microfono di Anna Migliorati il criminologo Francesco Bruno. Il nostro paese ci si innamora della versione data dalla polizia e ci si dimentica che la polizia è una parte. In realtà non è così, perché esistono 2000 suggestioni e anche in totale buona fede si possono commettere errori, sopravvalutazioni. Ci sono vecchi casi vecchi di decenni che si riaprono con il DNA. Altri casi come questo che per le perizie prendono una strada sbagliata. L'errore dov'è? In chi guarda, fa o non fa le perizie o nell'uso della tecnologia? L'errore è quando si vuole far passare per forza un elefante attraverso la cruna di un ago. Cioè la scienza è obiettiva e l'uso che si fa della scienza può essere di parte. Quindi se c'è un DNA, la scienza lo rivelerà. Se poi questo DNA è del signor X, anche questo la scienza lo può rivelare. Ma questo non significa necessariamente che il signor X è l'autore di un omicidio, tutto. Fa discutere il caso di un'azienda di Inzago nel Milanese che avrebbe deciso di licenziare solo lavoratrici donne, questa almeno è la denuncia dei sindacati. Radio 24 ha cercato i vertici della Mavib, questo è il nome dell'azienda, ma al momento si sono detti non disponibili a rilasciare dichiarazioni. I dipendenti, intanto 30, di cui 18 donne, hanno proclamato 2 giorni di sciopero. Fabio Mangiafico della FIOM, Milano, al microfono di Maria Luisa Pezzali. La direzione aziendale ieri ci ha comunicato che intenderebbe procedere a un numero compreso fra i 12 e i 13 licenziamenti a partire dal mese di settembre di quest'anno e che questi licenziamenti riguarderanno esclusivamente le lavoratrici di produzione e le impiegate. Formalmente l'azienda sostiene che questo deriva dalle mansioni che queste lavoratrici svolgono, in realtà però in molti casi non ci sono enormi differenze e molte mansioni svolte dai lavoratori potrebbero essere svolte dalle lavoratrici. In maniera evidentemente meno formale ma assolutamente esplicita, l'azienda ha più volte, nella persona di alcuni suoi responsabili nonché titolari, ha più volte avuto occasione di dire che in fondo le lavoratrici, anche se stanno a casa già quando erano in cassa integrazione, in fondo hanno i bambini da curare, in fondo il vostro è il secondo stipendio perché il primo è quello dell'uomo e quindi se anche rinunciate al vostro o lo si riduce un po' attraverso la cassa non è un gran problema e cose di questo tipo. Noi riteniamo quindi la cosa molto grave, non c'è molto da commentare, insomma, adesso non siamo nell'ambito di robe che 100 anni fa erano già considerate un po' arretrate. L'uso militare degli aerei senza pilota è ben noto, ma il loro impiego civile può essere altrettanto utile per tenere sotto controllo il territorio. È l'obiettivo del progetto Smart F1 che si presenta oggi al Protec di Torino, il Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile ed Ambientale. Capofila del progetto è Alenia Aeronautica, di cui Maurizio Fornaiolo è responsabile di ricerca. L'intervista di Laura Bettini. Stiamo parlando di sorveglianza del territorio, ovvero la possibilità di operare con dei sensori specifici che vanno dal visibile all'infrarosso, alle immagini radar e in futuro anche con il multispettrale, fornire delle capacità di sorveglianza del territorio a varie altezze con varie risoluzioni. Il monitoraggio del traffico, il monitoraggio di aree sensibili, ma anche monitoraggio ambientale, ad esempio la verifica della qualità delle acque, la verifica dell'inquinamento, dell'utilizzo stesso del territorio, così come, e questa è la cosa. Questo sarebbe possibile con questo tipo di sorveglianza aerea? Assolutamente, anche perché questi sistemi possono essere tenuti in volo per moltissime ore, hanno la possibilità di intervenire modificando la propria missione sui punti di interesse. Il fiume della prepotenza è il titolo dello spettacolo che in anteprima nazionale sarà rappresentato oggi ad Asti nell'ambito del 33esimo Festival del Teatro. L'autore Mario Capanna, scrittore, esponente di primo piano della contestazione studentesca del 68. La protagonista è invece Ileana Spalla. Mario Capanna ai microfoni di Paolo Panceri. In pratica è la prima storia della prepotenza che mai sia stata scritta, nel senso che, come sanno gli ascoltatori, esiste la storia di tutto, no? Della radio piuttosto che della televisione, dell'architettura, della filosofia, della tecnica, eccetera, perfino della patata e della minigonna, ma non è mai esistita una storia della prepotenza e quindi di questa incredibile compagna di vita che in qualche modo segue e sovrasta l'uomo dai primordi dell'umanità. E la cosa interessante è che mentre ad esempio i greci avevano chiaramente presente le insidie della prepotenza, per ben 1500 anni nelle lingue dell'Occidente, quindi italiano, inglese, francese e via, è scomparsa la parola prepotenza, fino a ricomparire verso la metà del 1600, mentre noi stiamo parlando, il 2% dell'umanità controlla il 50% della ricchezza planetaria e il 10% delle persone controlla ben l'80% delle ricchezze del pianeta. Altro che democrazia, no? Evidentemente. È tutto, prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.